If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your you just found it. It's your time. Avevo leggermente il volume alto in cuffia, a me mi sono spappolato i timpani. Che volume è arrivata la sigla? Welcome! Dai, dai, che iniziamo, va! Get ready for some fireworks! Oggi è una gran bella giornata di sole, temperatura ottimale per una passeggiata con gli amici fuori, magari con il Walkman dietro. And now! Your favorite DJ! Sono io, Robby D'Antoni, che vi dà ancora una volta il benvenuto, ben ritrovati sulle onde intelligenti di CRM Happy Radio. Questo è On The Road, iniziamo. Flashback, vai! Flashback. E che flashback! Se non ti dà la carica sto disco, cambiamo mestieri. 15.06 ufficialmente prende il via On The Road, mettetevi comodi. Iniziamo subito con un classico di scena YouTube. One man come in the name of love, one man come and go, one man come he to justify, one man to overthrow. Bono, You Too, Bride in the Name of Love, il primo disco di oggi, il primo disco di On The Road, ben ritrovati sui 101.4 se state seguendo via Ether. Volevo salutare gli amici che ci seguono su internet

Allora, com'è facile richiedere le vostre canzoni? Basta digitare la vostra canzoncina mandando un messaggino al 335-5637-251 oppure la linea più diretta 0921-923-292 oppure, come facciamo sempre, basta inviare un messaggino al nostro profilo di Facebook, troverete facilmente Facebook il nostro indirizzo CRM Happy Radio o eventualmente seguendo la diretta, diretta@crmhappyradio.it in streaming. E là potete decidere quale canzone richiedere. Noi facciamo ancora musica. Vi regalo ancora un disco molto bello, molto pimpante. Si chiama Carol Emerald. From where you are, you see the smoke start to arise where they play cards. And you walk over softly, moving past the guards. The stakes are getting high, and you can feel it in your heart. He calls you bluff. He is the ace you never thought. Tensioni e cortei al Cairo per chiedere le dimissioni del presidente Mubarak. Il governo minaccia l'intervento dell'esercito e accusa di intrusione gli Stati Uniti, che chiedono una svolta immediata. Washington replica invitando alla moderazione. E Valeri, l'arbitro designato per il derby d'Italia Juventus-Inter, posticipo di domenica sera della 25esima giornata di Serie A, a Bergonzi, Roma-Napoli, Milan-Parma sarà diretta da De Marco. Economia e mercati. L'evasione fiscale sta diminuendo strutturalmente, seppur di poco, così il responsabile dell'Agenzia delle Entrate Befera presentando i dati su... ...l'Equitalia. Con il pacchetto di stimoli varato ieri dal Consiglio dei Ministri, il PIL potrebbe crescere dello 0,5%. Così oggi il ministro del lavoro Sacconi, Berlusconi, ieri aveva parlato di più 1,5%. Dalla produzione alla logistica, dal confezionamento alla distribuzione, l'intera filiera produttiva ortofrutticola italiana è presente alla più importante fiera internazionale del settore, Paolo Italiano. Con 400 aziende presenti, l'Italia fa la parte del leone a Frutt Logistica di Berlino. La Germania resta infatti il paese al primo posto per le esportazioni. esportazioni di prodotti ortofrutticoli tricolori. Un settore, ricorda il ministro per le politiche agricole Giancarlo Galan, che nel 2010 ha registrato andamenti molto positivi. Un incremento del saldo della bilancia commerciale del 135% nei primi 10 mesi dell'anno, 900 milioni di euro di utile, una presenza capitale nel mercato più importante che quello tedesco. E la settimana prossima a Bruxelles il ministro Galan incontrerà i suoi omologhi europei. Sul tavolo il tema dell'etichettatura dei prodotti alimentari, un tema su cui l'Italia è però già avanti rispetto ai partners europei. Per una volta possiamo anche essere orgogliosi, non mi ricordo tanto frequentemente il nostro paese avanti rispetto agli altri in Europa. Le borse europee scivolano in terreno negativo, tra le peggiori piazza affari, che perde oltre l'1%. Sul fronte dei cambi, euro a quota 1,36 dollari. È tutto per questa edizione, a più tardi. CRM News, l'informazione in tempo reale con aggiornamenti ogni ora. Se potessi avere solo un euro al mese. Ma chi non ha un euro al mese? Sì, hai ragione, tutti hanno un euro al mese. Quindi tutti possono sostenere a distanza un bambino abbandonato. Con un euro al mese? Sì, ma solo con Amici dei Bambini. Scopri come su www.aibi.it/basta un euro o telefona allo 02 988 221. Mettiti in gioco anche tu. Amici dei Bambini, il diritto di essere figlio. CRM. Se il rock è la tua passione, non mancare all'appuntamento di ogni venerdì alle 21 su CRM con Rock Revolution, il programma rock di CRM con ospiti, interviste e speciali su artisti emergenti e sui big del mondo della musica nazionale e internazionale. You need cool air, baby, I'm not fool. CRM. Pubblicità. Un locale accogliente per giovani e non, con giardino all'interno e buona musica. Bebop, new look, panini, crepes, piadine. Potrete gustare menù particolari, antipasti, primi e secondi a base di carne o pesce, menù colorato per soddisfare i gusti di tutti. Bebop new look è anche il luogo ideale per festeggiare ricorrenze particolari, anniversari, compleanni, lauree. Bebop new look, culturally food and drink. Risto Pub, con le famiglie o con gli amici, via Nicola Botta 4 Cefalù. Evento straordinario, la cena di San Valentino al Bipop. Durante la serata musica e animazione a tema, per un San Valentino da non dimenticare. È gradita la prenotazione al 327 552 90 62. Per le tue nozze da sogno, il tuo abito da sposa deve essere splendido, originale, esclusivo, proprio come tu lo hai sempre sognato. Affidati all'esperienza e alla professionalità sartoriale della sposa di Mariella di Caccamo, che ti invita a visionare le nuove collezioni di abiti da sposa, sposo e cerimonia delle più importanti griffe italiane. Ne resterete affascinati. La sposa di Mariella, Viale Regione Siciliana 177, Caccamo, 091 81 21 498. Infoline www.lasposadimariella.it. E il tuo sogno diventa realtà. Pensavo di fare un regalo a mia moglie, un pensiero memorabile. Vorrei suggellare il nostro amore con un diamante, perché un diamante è per sempre. Un diamante certificato che ne garantisca la qualità e l'originalità. Allora, Mineo Gioielli, via Flavio Gioia 3, telefono 091 96 23 13 a Bagheria. Se un pensiero è memorabile, è per sempre. Mineo Gioielli, a Bagheria. Se vuoi rilassarti con i tuoi amici, c'è Eolo Caffè Drink and Food al porto di Cefalù. Per un aperitivo, uno stuzzichino e anche per mangiare bene con degli ottimi panini alla piastra, la rosticceria e la friggitoria, c'è l'Eolo Caffè. Eolo Caffè, ambiente accogliente, climatizzato e video con Sky autorizzato, dove potrai gustare comodamente dal caffè al panino. Eolo Caffè, al porto Presidiana di Cefalù, per una ricchissima colazione. Aperto dalle 6. Eolo Caffè Drink and Food organizza anche feste di compleanno. Telefono 0921 925 083. Eolo Caffè è anche rivendita autorizzata a tabacchi e biglietteria marittima per le isole. Rompi la routine dei soliti fine settimana. Fai diventare i tuoi sabati sera diversi dai soliti. Scatena la gioia che c'è in te. Vieni a divertirti alla discoteca Carlton Riviera. Ogni sabato a partire dalle 22.30. Carlton Disco. I migliori DJ, attrazioni nazionali ed internazionali, cubiste e tanta animazione. E per non rimanere senza, prenota il tuo tavolo privé. Discoteca Carlton Riviera. Ampio parcheggio, contrada Capo Playa, Cefalù. blu. Ed inoltre puoi festeggiare i tuoi eventi particolari. Discoteca Carlton Riviera, ogni sabato sera, il tuo appuntamento. Mangiare sano ti aiuta ad affrontare meglio lo stress della vita quotidiana. Rivolgiti con fiducia alla macelleria Arcangelo Cipriano. Sulla tua tavola carni fresche, genuine e certificate provenienti da allevamenti locali. Vitello, agnello, carni bianche, capretti e polli. E se non hai tempo, macelleria Arcangelo Cipriano ti viene in aiuto proponendoti tanti preparati di vario genere. Macelleria Arcangelo Cipriano, via Umberto I 52 a Cefalù. Telefono 0921 42 10 99. Concessionaria esclusiva per la pubblicità su CRM per Termini Imerese Alfa Omega. Telefono 331 308 34 64. CRM On the Road. Sorprendo un po' ti invento, un po' ti dai, ogni tanto perdo il filo, forse non ci sei, non hai nome, chi ti crede, fiore di ninfe. Toccagliela la bimba, la nuova nascitura della Nannini, perché lei è piuttosto che mai non è una leonessa soltanto sul palco, no, anche nella vita, soprattutto quando si tratta di difendere la privacy della sua piccola Penelope. Gianna Nannini infatti ha sfoderato la grinda, l'ho detto in barese, la grinta che rende unica lei e le sue canzoni, condita anche da un pizzico di kung fu. A farne le spese è stato un paparazzo che si è spinto un po' oltre, allontanandolo a suon di calci nel sederino. Con arti marziali o no, Gianna Nannini è tornata in forma più che mai, decisa a difendere l'intimità della sua piccola, che è nata a novembre. La Nannini non ha esitato ad affrontare un fotografo e per l'occasione sfoggia una tecnica di combattimento davvero kung fu, una kung fu mami. Le immagini pubblicate dalla rivista Diva di Vedonna non lasciano dubbi. Posizione di guardia, caricamento e una bella ginocchiata ascendente diretta verso la fotocamera. Ha preso di striscio la fotocamera e ha preso i rullini. E poi... Poverino il fotografo. Pochi mesi dal parto, la cantante mostra una forma invidiabile, grazie alla quale è stata in grado di rendere inoffensivo un obiettivo troppo curioso. Ma Gianna non è certo l'unica star ad avere discusso con i paparazzi, ce ne sono state tantissime: Melita Toniolo, Fabrizio Corona, Hugh Grant, Orlando Bloom, tanti ogni volta hanno. Anche perché sì, è vero, fotografare, paparazzare, però voglio dire, c'è sempre un limite a tutto, c'è un limite. Voglio dire, porcaccia la miseria, tu non mica puoi arrivi e vai così a campo aperto, e ci sarà anche un po' di privacy, voglio dire. Hai pagato per foto? Non hai pagato niente foto, se non paghi niente foto. Va bene, va bene, abbiamo su quasi in conclusione della prima ora. Dobbiamo ospitare la redazione. Sentiamo intanto che ora abbiamo fatto e poi torneremo ancora con un classico. State lì, questa è la radio che si sente e si vede. CRM Happy Radio. CRM On The Road. Flashback. Music. Che bello che il disco, che quanti anni sono passati, mamma mia, no? Un'eternità sul vero senso della parola. Tanto tanto tempo è passato, tanta acqua è passata sotto questi ponti, da quando Fr Davids ha inciso questa canzone che andava, io mi ricordo andava tantissimo in Germania questo disco, ballavano lo slow, una specie di lento un po' più veloce, una sorta di Fox o qualcosa del genere. Ma siamo nella seconda ora insieme, voi siete con Roby D'Antoni, che è il sottoscritto, che vi augura ancora una volta buon pomeriggio. Questo è On The Road. Adesso arriva anche David Guetta. Can't nothing help me right now. I see you get together, let's get them. Hey, I own the mic and I don't need no help. Gotta be the bitterness, confess tell. Stuck and gone wild, can't handle this pair. Back for the club, arrogant like yeah. Top like money, so the girls just mail. One too many, y'all know me like 12. Look like cash and they all just there. Bottles, models, selling no chairs. Fall out, cause that's the business. All out is so ridiculous. So not so much attention. Scream out, I'm in the building and they're watching, I know this. I'm rocking, I'm rolling, I'm holding. I know it, you know it. You know I know how to make them stop and stare as I zone out. The club can't even handle me right now. Watching you, watching me, I go all out. The club can't even handle me right now. She's tryna make me pull. In the party till I can't no more. Celebrate cause that's all I know. Tip the groupies taking off they clothes. Grand finale like Super Bowl. Go hard, I run the show. That's right, while I've got money to blow. More lights, more ice when I walk in the door. No hype, do a gig all over the globe. Yeah, I said it, go tell it. Confetti, who ready? I'm ready, you ready? Let's get it. You know I know how to make them stop and stare as I fall out. Can't even handle me right now. Watching you, watching me, I go all out. The club can't even handle me right now. C'è la pubblicità di mezzo, devo fermarmi, poi devo fare una cosa, mamma mia, ma che canzoni richiedete, ma voglio dire, va. Pubblicità, un attimino. Sì, sì, c'è, è già pronto. Quindi pubblicità e poi dicevo una cosa stranissima, devo fare anche dei saluti, ma dico, ma così matte, ma tutte a me toccano. Pubblicità, due minuti e poi insieme. Happy Radio, on the road. Senza voglia di ritornare. Musica è come musica, la smania che mi prende di vestirmi da sirene come una visione magica. Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere, non lo deve sapere. Mia madre non lo deve sapere. pelle che colorano un tramonto caldo e mitico. Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere, non lo deve sapere. Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere, che voglio andare ad Alghero in compagnia di uno straniero. Si spiaggia assolate, mi parli in silenzio con languide occhiate. Sono ancora ad Alghero in compagnia dello straniero. Le corse sfrenate su moto cromate di sé. Pensare, finisce così, però a pensare che di tanto in tanto, quando vado a fare le serate in alta montagna, no? Loro vengono e la cantano pure questa canzone. Io le volevo salutare, Ambra e Vittoria, che hanno richiesto questo disco strano, però pur sempre bello, di Giuni Russo, che ogni tanto tiriamo in ballo. Sapete che noi abbiamo una rubrica, proprio una finestrella adatta per i nostri classici e i dischi che andiamo a ripescare indietro nel tempo. In questo caso ne abbiamo approfittato per farlo sentire. Giuni Russo, Alghero. Voglio andare ad Alghero. Ma poi che ci sarà di bello ad andare a vedere ad Alghero? Ma voi ci siete state, caramba? Va bene, torniamo a farvi ballare un po', rendiamo il pomeriggio un po' più pimpante. Questo è il disco che è stato in vetta alle classifiche dance non so per quante settimane. Quello di Martin Solberg, questo è Hello. Just came to say hey. qualcuno che dice che è vero, altri che non è vero, però la mano che teneva il pancino lascia un po' immaginare che effettivamente la Marcuzzi è in dolce attesa. Chi è che segue il Grande Fratello? Solo chi segue il Grande Fratello può vedere se effettivamente dietro i vestitini che indossa la Marcuzzi ci sia quel pancino che lascia intuire il fatto che è in attesa. I wear a demeanor made of bright pretty things. What she wears, what she wears, what she wears. Birds singing on my shoulder in harmony it seems. How they sing, how they sing, how they sing. Nights of solitude, red wine, just a glass or two. Reclined in a hammock on a balmy evening. I'll pretend that it's no thing that's skipping my heart when I think of you thinking about me, babe. I'm crazy over you. Di country in questa canzone, Something in the Water, bella bella, mi piace, di Brooklyn Fraser. 16:24 CRM Happy Radio, Roby D'Antoni con voi anche per oggi, insieme sino alle 17, quindi ormai nella seconda ora, un po' più di una mezz'oretta da trascorrere insieme, mezz'oretta per cercare di accontentare ancora le vostre segnalazioni, le vostre richieste. E tra queste c'è questo nuovo di Jamiroquai, Acting out all the scenes before my eyes. Thought I knew them all by name, but they started looking much the same, and it's no surprise that I don't wanna listen. Blue sky,

che la Renga, Francesco Renga, all'interno di On the Road anche per oggi. Oggi è il giovedì, è il 10 di febbraio. A proposito, magari poi sentite che io do i numeri, no? Perché tanto in tanto ricordo l'orario per dirvi che siamo in rigorosa diretta 16:31. Però poi, visto che noi abbiamo anche le repliche notturne, non ci fate caso, non sto dando i numeri, come dico sempre, è solo perché siamo in replica. E allora seguite quello che succede nel pomeriggio, chissà quest'ora della notte che ora sarà. Poi, se voi andate sul nostro profilo o sul nostro sito CRM Pirelli, là ci sono proprio le repliche dei programmi, se volete seguirli. Insomma, magari vi piace risentire quello che è successo durante il pomeriggio, avrete proprio la possibilità di ascoltare le repliche in qualunque giorno o in qualunque momento della giornata, che forse è meglio. Continuate a richiedere la vostra musica 0921 923 292, o eventualmente i vostri sms 335 5637 251, oppure lo potete fare al nostro profilo Facebook CRM Radio, o eventualmente ancora in streaming diretta @crmpradio.it. Thank you.

Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Pixels. È arrivato il momento di salutarci, noi ci risentiremo ancora domani, ultimo appuntamento della settimana dalle 15 ancora una volta alle 17. Poi finiamo così la settimana per ritrovarci il lunedì di San Valentino. Serata a tema, anzi pomeriggio a tema. Bene, non mi resta altro da fare che salutarvi e ringraziarvi come al solito. Un saluto anche alla nostra webcam. È davvero tutto da Robby D'Antoni, un bacione, alla prossima, bye!